niente, lo pongo qui se è nato. Ma parà, quale buono è nato? E se no lo dà fuori a Casarella. Questo è brucussi, dai, sono un po' un pezzo di Sardegna, non andava bene. Lo pongo lo scotch sopra, la sto con matto. E che per un uomo della radio, buro. Adesso ti do una gazzarella di calcio astuto, non ero mai a pesci. Ma che sei, lo ti do. Va bene. Sì, Giamari. Dimmi to. Ah, no, aspetta. Oh, Luca. Ehi, Giamari, dimmi. Ma cosa ce l'hai quella carriola sopra la testa? Quella sotto. E buio, Giamari, che si lamenta. Cercala. E adesso dai, mi do una sciacquata e poi la cerco, poi forse ce l'ho su WhatsApp, te l'avevo inviata, dai, sentiamo già. Vabbè, allora ti ho trovato? Sì, già è così come stavo dicendo io, già è così, quel passaggio lì bisogna fare per andarci. Purtroppo, questi apparecchi che hanno il menù e un macello, senza almeno non fai niente, devi per forza entrare, per cui... E vivo pazienza, vabbè, chi c'ha tutta questa pazienza già lo può fare benissimo. Vai, Emanuele. Sì, a te, ma lo regali a me che ti faccio vedere io come si usa. Bisogna che aggiungi un bel cosa, aggiungi. Capito. Mica lo maneggia, Emanuele, Otto, esperto, già esperto lui. Tore, vuoi fare affari con me, qua io, ma dai, sta radio, ti do con Garelli senza arruti. Adesso se è poco sei del negozio, tu puro. Niente, fammi una cosa, teniamo di questo che va vedi. Rimaniamo sui Casarelli Barruti. Cammini allora, Jimmy. A che ti fai costruire, ti fai in alluminio, da fricco, me. E ti fai fare i raggi. Ecco, io dirò con la mountain bike, ma allora rimanca una cosa da lì, dottore. Ma anda. Da mountain bike, naggio due in naggio, quindi non c'è bisogno che mi dai di biciclette, mi dai di... Tenetevi la roba a voi, che io mi tengo la roba mia. Sì, boh, che secca in culo, che bizzino. E boh, anche l'immagine gioca. E cosa, Manuel? Se le volevo far fare un affare, le volevo dare una mountain bike, mancava solo una ruota di Laredo. Boh, per la radio. No, non lo può fare, no. vabbè. Oia. Guarda, io non me ne faccio niente di quella radio, perché non... Per usarla solo in una banda e la 3 la salito web, se no gli avrei fatto fare io l'affare a Tore. Solo che lui lì c'è anche le HF, capito? Anche se non le usi, però se tu vuoi avere solo le VLU, c'ho l'820H che è dentro la scatola. E quella è bella. Tu quella ti ho mandato la foto, quella è base, quella è un base da 100 watt VHF, doppio display, ma bella però, bella della Icon. Ah, sono belle quelle, sì, sono belle, sì. Sono belle, quelle lì ti mandano 100 watt, giusto? Sì, quelle sono da 100 watt V e U. È una bella radio quella lì. E quanto costa? Quella? Guarda, quella quando l'ho comprata io, l'avevo comprata in un mercatino alla fiera, cazzo la volta mi manchetti, l'avevo pagata, adesso mi ricordo se era 1150 o 1100, una cosa del genere. Quelli cosa? Non è per certi apparecchi che ci sono, non è così molto, comunque. Cazzo. Insomma, le soldine, per cui... A noi quella roba non ci... non ci abbiamo giunto a comprarli, vero Manuele? Io brutto non nascio di una bappia che cose, anche non ne vale la pena. Non ne vale più la pena, Giomari, lo sarebbe da fare. E poi come ho fatto io, buttati fuori tutti quanti, boh, ne ho lasciato due e basta, boh, e questo portatelo, boh, già va bene. Sì, c'ho quello che mi hai regalato anche, quello che mi hai regalato tu, l'888, quello nero, chi si va? lei, quello mi dice un'antenna serra, e va bene ugualmente, per noi già ci sentiamo. Senza se posso un'antenna di Roma nel Boggiolo. E allora dice, non siamo di più. Ma per queste due chiacchiere fra di noi, già va bene. Certo che non è che puoi fare lunghi percorsi, massimo 25 km o di più, non penso che arriva a 25, così è qua. Ehi, già vi sentite, io vi sento tutti, non ce ne ho problemi. Sì, Gio Maria, ma quello è una radio amatoriale, non è che la UCIBA per UBMR, no? Quella è una radio amatoriale, è un 820H. È un bibanda base, c'è il sistema satellitare, cioè una radio completa per fare attività amatoriale. Scusa, noi era Drattinoghilo, qua io ho quella stracco baratto che c'è l'antenna diretta solo per il PMR, capito? Non è un giocattolo, ma comunque non è neanche una radio così performante di ultima generazione. Sono radio che ho e ne ho messo una in PMR, buh. Ma quelle grandi base, Emanuele Iarusaga, so. Sono tutte radio della ICOM, grandi basi, voglio dire che sono grandi quanti un 440, e non aggiù veicolari, non aggiù mai avuto veicolari. Manuel. Sono tutte belle radio. Sono tutte belle radio, vabbè, la frequenza radio materiale così, le devi avere, non devi avere caso o baracchini della 27 o veicolari. Quel baracchini va bene, ma è tanto, ormai manca, nemmeno ne acquistava, ne riso pochi, ma ecco, già ce ne sono, ma sono pochi, non è come prima, no? Come 20 anni fa, c'era da ascoltare veramente, ma adesso è che cosa va, non c'è nessuno più. Non c'è più nessuno, Giamali, perché si sono tutti spostati in digitale, ci sono altri sistemi, oramai l'analogico in VHF e UHF è passato, è tutto scambializzato, è tutto a livello digitale oramai, cosa è cosa? Prima da me ascoltavamo la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, adesso non lo puoi più ascoltare perché lavorano tutti in sistema digitale, capito? Quindi non ascolti più nulla. A Ravini anche uno SWL dice cosa me lo compro a fare il ricevitore, tanto qua chi devo ascoltare? Non posso ascoltare più a nessuno. Oggi un SWL per ascoltare, per fare l'SWL, deve spendere un pacco di soldi in radio di ultima generazione, che vero quasi va, per ascoltare all'altri, non ne prendo di no per ascoltare all'altri. Ma infatti non vale la pena, eh. Infatti non vale più la pena, questi che... L'era sta cambiando, per cui anche noi stiamo cambiando, per esempio prima io ci tenevo a avere queste cose, allora adesso non mi interessano più, forse sono stanco, ne sono stanco anche, capito? Mica li ho trovati, ne ho avuto io, non c'è più nessuno, poi non c'è più quell'armonia di prima, ecco, tutto diverso. E poi anche questo fatto degli apparecchi digitali adesso è anche ai costi. Bisogna trovare un apparecchio digitale, allora per ascoltare, ma costa troppo, come fai a comprare un apparecchio del genere? Lo saranno. A questa età meglio così, un baracchinetto piccolino. Se ce ne ci chiacchiere, se no pazienza. Vai tu. Allora, è così infatti. Meglio avere un baracchinetto minoreddo e come ti verrà via prima? C'ho quello, il 2000 c'ho. Il CT, il 2000. Cazzo, se lo vedi, con il tuo pacchetto di sigarette. C'ho dentro la scatola, l'ho acceso. Ho usato una mezz'oretta, me l'ho messo dentro la scatola. E è tutto digitale quello lì. Ma cos'è? La 27. Allora, 40 canali, tutto digitale. È piccolo. Quanto quell'apparecchietto piccolino che hai visto, Manuel? Quanto è quello il 2000, Sì, no, la buona, cazzo, le dazioni come ti dici che c'ha, con qualche cotton fiocco. Per abbassare il volume del transumino, per abbassare le squecce del transumino, tutto forse un minuto deve fare quell'apparecchio. Ma è piccolino, quello te lo puoi mettere anche in tasca della giacca e ci sta bene. Certo, bebbo, vai qua. Ce ne sono, caspita, ce n'è di ultima generazione, belli, eccetera, però ti ripeto, io per l'attività che, oddio, non so come vende più nulla, per carità, però le dovevi avere, le devi avere, perché altrimenti non hai quello che ti serve, assolutamente. Questo ad esempio è un Alinco 599 frontalino estraibile, bibanda, doppio display, 50 watt, però è una radio datata che insomma si usava negli anni che furono, è nuova, funziona benissimo, c'ha il connettore MC60, nessuna modifica, diretto, c'ha l'attacco del cable praticamente, e siccome era fermo, si è accesa la ventolina, si accende la ventola quando inizia a scaldare, sono a metà potenza e va bene, e l'ho messo qui, ci ho attaccato l'antenna diretta e parlo in PMR, tutto qua, capito? E va bene, quindi Tore, ci hai rinunciato? No Gigi, lascio tutto come ti ama, se c'ho tempo domani, se no non posso domani. Sì, comunque basta pintarti lì e facci, ti bogi piano piano e fai questi passaggi e vedi come si comporta, magari ti accendi il portatilino di buoni riguffi e guardi, capito? Fai prima senza compressore e senti la modulazione, poi accendi il compressore e guardi se aumenta, capito? Se no, se non ce la fai ti devi rivolgere a chi lo sa fare, ma comunque i passaggi sono quelli. Infatti è così, i passaggi sono quelli, come ho visto. E vabbè, domani se c'è tempo, se no, pazienza. Comunque ti posso dire che sto uscendo benissimo. La radio non è amplificata, è la comodità che non tiene il microfono in mano e la radio è perfetta, to. Non è né bassa né alta, è mediocre. Vero Gio Marì? Beh, infatti, allora. Non è che dobbiamo fare gli ex, no? Tra noi e noi basta così, normalissima, è più che bene, to. Così, e poi piano piano le cose già si fanno, vai, ci vuole anche tempo suo per conoscerlo bene, vai, così che... Poi è tutto scritto in inglese, come fai a capire un tubo? Ma c'è in italiano, basta a fartela arrivare, te lo danno anche l'italiano, to. Ce l'ho in italiano io. Io ce l'ho tutto in italiano. È già un vantaggio quello lì, che almeno riesce a capire qualche cosa in inglese. Ma con il saggio va bene, in inglese. Comunque la stanno bene, dai. Deve solo guardare quelle impostazioni lì, che vedrai esce ancora meglio qualcosa inserito. Vai qua, cazzo, sto ascoltando qua, a Pompuglio, cazzo, ma non lo so, ma non siete come sta uscendo. No, guarda, io mi sono abituato a fare una cosa, forse Gio Maria mi dà ragione. Io ci faccio una cosa che fa vedere in occhi, non è corto alla Sebasti. Perché poi mi incazzo, io quando sento uno che esce in quelle condizioni, Manuel, mi viene il nervoso, perché io dico sempre, non è importante uscire forte di segnale, ma è importante uscire di radio. L'altro giorno gli ha detto cosa anche Giulio e si è offeso. Ok, io non è che per carità non ce l'ho con Antonello, perché ognuno fa quello che piace, si è offeso perché Giulio non lo sentiva male. Però è chiaro, se uno ti sente male, te lo dice, non ti devi offendere, capito? Lo stavo ascoltando anche io, e stavo facendo male, sì. E lui si è offeso e se n'è andato. Ma anche adesso è tutto amplificato, ma si intende ronzio sotto, vento, non so cosa, attaccato. A te. Sicuro. Siamo a chi? Buonasera, sicuro. Ma è dove ci cucì, Emanuele? C'entra Giulio. Tu dovrà attaccare. Ciao Bacchi, riprendi. Buonasera. Ok, solito di salutare. Ciao Claudio, buonasera. Buonasera Ginko, Gian Maria e Tore. Buonasera a tutti e tre. Cioè, spazzolando ho sentito, salutiamoli e così poi chiudiamo il tono. Bene, ciao ancora a tutti, una buona serata, Bacchi vi saluta e rimette il micro per Claudio. Riprendi Claudio. Gappa gappa Bacchi, ti passo subito a Gio Maria, vai Gio Maria. Ciao Bacchi, buonasera, ben risentito. Ma perché stai chiudendo? Lo fai, sai? No, sono a casa Gio Maria, sono salito qua in radio per vedere un po' la situazione di questa antenna, perché ieri mi dava un fondo di stazionarie. E invece l'apparato che è andato in a mala. Bene, Mela, detto il tono, chiudo tutto. Avanti Gio Maria, ascolto e poi chiudo. Ok, d'accordo, Bacchi, dai. Saluto di casa, dai, ci sentiamo se tutto va bene domani. Allora, ciao Bacchi, buon proseguimento. Vai Emanuele. Ciao Bacchi, buona continuazione, dai, e buon tutto. Ci sentiamo. Vai, Claudio. Ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime. Sei sicuro? Andate. Riprendetela Claudio. Ciao Bacchi, un abbraccio, alle prossime, dai, buon fine serata, buona domenica, buon fine domenica, buon tutto. Alle prossime, sicuro, vai Emanuele. Già salutata Bacchisio. E se cari abbassiamo le voci, Otto, non lo so, per esempio la mania della prepotenza, vacca. Vabbè che sono normale, io papi denimi, no ma mi intendo a me assariato. Bello bene. Te che andiamo bene, andiamo con chi tu. Se mi si gira è un po' gareddo. Oi. Andiamo bene. Riprendi Gio Maria. Ok. Ma lui è... C'ha gli orecchi un po' pulite oggi, per cui ti sento troppo forte oggi. Così è, Manuel? No, adesso è bene, dai, adesso è benissimo. Cazzo, lo sento meglio qua che in 27, figurati, adesso è bene qua. Una bella modulazione, complimenti. Ma non ti avvegli a vito, Baromi. È come Marino, Marino io, in cose, in Piemere lo sento perfetto, in cose le 27 lo sento strano, boh. È l'apparecchio mio, ma lo sento strano, eh. No, già così, già Marino, in Piemere esce bene Marino, esce bene, come una telefonata, in 27, sì, già esce bene anche in 27, però esce meglio in Piemere, vai to. È così, ma c'è giorno che come si alza e si vede, dipende dalla radie. Che cosa vuol dire il tempo e tu, così è? Prima ti giravo il tempo, bisogna fare così, e vabbè, pazienza, bisogna adattarsi così, riprendi qua. Gappa, dai, stavo aspettando, che sono già le 8:25, che vado al sistema americano prima di fotti a Buggio. Signori, un abbraccio grande, buon fine domenica a tutti. Ciao Tore, ciao Emanuele, ciao Gio Maria, Bacchisio e chiunque sia in ascolto qua sul canale 7 LPD. A domani, ci sentiamo domani se coincide. Vai Gio Maria. Ok, ciao, qua ci sentiamo. Buon primo salata. Buona passeggiata con Canani. Vai Emanuele. Ciao qua. Buona passeggiata, buon tutto. Ci riascoltiamo. Ti volevo chiedere, ma per sabato allora cosa ha deciso? Si fa quella roba lì? Veduta la ghida mio, Emanuele. Vediamo, può darsi ci sia qualche imprevisto poi. Ci aggiorniamo tra giovedì e venerdì, come abbiamo fatto l'altra volta. Ok, dai, poi già lo sento a lui dopo, dai, e vediamo cosa dice. Perché ti posso dire sì, tutto a posto, poi sabato c'è un imprevisto, non va bene. Ci aggiorniamo venerdì, l'ultimo, il prima di sabato, insomma, dai. Così vediamo se non ci sono intoppi, se è tutto a posto, anche per lui, capito? Dai, buona serata a tutti, alle prossime, ciao! Ciao, vai a te! Grazie, ok, Cla, ci sentiamo alle prossime, ok, ciao Claudia. Ti prende Gianmarie. Ma tu già portato là fuori il cane? Alle 8:30 lo porto, 8:30, 9:15, le 9. Ah. Quante volte? 3 o 4 volte al giorno? 4 volte al giorno lo porto. Così cammino io buro. Ah, anche lui ha diritto di farsi la sua passeggiata, dai, e fare il suo comizio. Va bene, va bene. E tu che devi chiamare, Manuele? La iatta? Non è a nessuno. Se io esce a passeggiare. Certo che c'avevo un animale in casa, bisogna a tenerlo conto, se gli dà ragione, o se no non è brillante, perché è troppo fastidioso, per cui animale non più. Un tempo andava bene, però la mano non andava più, perché non saranno, però chi ce l'ha se lo deve tenere conto adesso, così è troppo. Infatti, ce l'ho purtroppo, sino a che campa, non devo tenere conto. Ma dimmi una cosa, quello che avevi portato a coso in paese, ancora lì è? Sì, ancora lì, c'era lui, c'era il padrone. Mia figlia l'ha lasciato a lui adesso, poi se trova una sistemazione lo dà. Ah, ecco, caro. Certo. Allora non ci sei più andato lì, se l'ha dato a lui. No, non ci sto più andando, no. E mi ci doveva passare mia figlia, invece no, non ha potuto. E io ho troppo lontano, a farmi ogni volta 50 andare, 50 tornare, sono troppo bisanti. Faccio un macello. Va bene, io vi saluto e chiudo, per cui ci sentiamo domani. Buon proseguimento, chiacchierata, per cui ci sentiamo domani. Ci sentiamo, saluto di casa, ciao Manuel, a domani. C'è tutto a fabbrodo, riprendi tu, chiudo, dai. Sono passato stamattina, quando stavo andando verso Albero. E il magazzino, vedi, da giù Giannardo, una volta da giù tutto. Boh, ha giocato basta, ma non prendi da che cosa. Allora non prendi da che cosa io. Ero dritto. Se sei passato, magari era una volta non ti ho sentito, infatti è venuto a Cantonello, già mi ha visto lì. Però a te non ti ho visto, ero dritto. C'è pizza pugliese, capito? Dico cos'è pizza pugliese. Sono cazzato verso mezzogiorno, sono salito. E poi dopo sono risalito, sono risceso, ma avevo dimenticato il telefonino giù. Però non ti ho visto per niente. Poi se sapevi se eri di passaggio, è chiaro che non ti potevi fermare, se è partito dritto, hai fatto bene. Dai, ci sentiamo domani eventualmente, dai. Ok, ciao. Ciao Giovanni, buon proseguimento di serata, dai. Vai tu. Ok, ciao Giovanni, ci sentiamo alle prossime, ok. Stammi bene. Ok, ciao Giovanni. Asco, Manuel, chiudo anche io che così mi preparo la cosa che devo fare. E tu canto. Ci sentiamo magari domani. Se ti va tutto bene, ok, ciao Manuel. Ciao a te, anche io adesso faccio qualche passaggio lì sul 10 e poi chiudo anche io che devo spiegare delle cose. Ok, ciao. Ciao a te, ciao.